140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola. Gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Studi di Radio 24, Milano. Il suo nuovo album è Un filo senza fine. Ha portato il singolo Pace con Amara come ospite a Sanremo. Dopo 8 anni torna Paolo Vallesi. Un po' difficile raccontare 8 anni di vita così in pochi secondi. Diciamo, avevo un po' abbandonato la produzione musicale, proprio nel senso di produzione di nuovi dischi, ma insomma non ho mai abbandonato il mondo della musica, sia a livello di concerti, sia a livello di produttore per altri giovani artisti, sia a livello anche di scrittura di colonne sonore e altre cose legate sempre al mondo della musica. Un filo senza fine è non solo il titolo dell'album, ma nel senso è anche un modo per spiegare che questo filo che mi lega alla musica e che in qualche modo la mia vita non si è mai interrotto. Canzoni di ieri, canzoni di oggi, anche una canzone importante di qualcun altro. Come hai scelto i brani? Infatti è un disco un po' difficile da spiegare, perché in qualche modo è un disco di inediti, ne ha 6, tra cui chiaramente il duetto insieme a Mara che abbiamo recentemente presentato al Festival, e però anche tre canzoni che fanno parte del mio repertorio storico, forse le più conosciute, che sono La forza della vita, Le persone inutili, Grande, che ebbe all'epoca un grande riscontro soprattutto in Spagna e paesi di America Latina. Con Alejandro Sanz. Con Alejandro Sanz, sei ben preparata. Ero una grande fan di Alejandro Sanz da anch'io, ragazzina. Anch'io. E la cosa bella è che sono stato molto invidiato da molti colleghi italiani per questo duetto, perché non è una persona che duetta facilmente. Detto questo, l'album, oltre anche queste tre canzoni, già parte del mio repertorio, sono state risuonate con un'orchestra sinfonica. Poi c'è una cover di un brano che adoro e ho sempre adorato fin da adolescente, che è Una notte in Italia di Fossati. Visto che hai citato Grande, ti voglio chiedere che cosa pensi e che cosa provi quando canti Anch'io che ho già 30 anni ormai. C'è un imbarazzo nel cantarlo, se non che le canzoni vengono scolpite nel momento in cui vengono scritte. Insomma, alla fine, pur essendo passati 20 anni da quel momento, le sensazioni che provo riguardo al mio, alla mia sindrome di Peter Pan sono le solite, quindi insomma riesco anche a dire sono ancora un bambino a 30 anni pur non avendole. Arriveranno giorni e notti di speranza, avremo amore in petto e non potremo stare senza. Arriverà il silenzio e vorrà dire pace, arriverà un momento dove confusione tace. Pensiamo, quindi cosa siamo? Siamo questa paura. Fermiamo questo sentimento, siamo ancora in tempo. L'emozione di risalire sul palco di Sanremo dopo qualche anno con Pace. Eri impredicato, eri tra i candidati alla gara, però la canzone l'abbiamo sentita lo stesso come contenuto speciale, come bonus track tra gli ospiti. È stata una cosa molto bella, una sorpresa molto bella che è seguita subito a una piccola delusione, perché in qualche modo sembrava fatta apposta per essere eseguita su quel palco. La mia emozione nel ripercorrere quel palco dopo 20 anni è strana, è stata un'emozione un po' anche mitigata dal fatto che Sanremo alla fine è rimasto lo stesso, anche se nel retro, cioè, i camerini sono gli stessi, cioè, ti fanno sentire che non sia passato questo tempo. Io mi sono proprio goduto la performance, sono riuscito a cogliere proprio quello che stava succedendo, è stato molto bello. Quando toccherai il fondo con le dita, a un tratto sentirai la forza della vita che ti trascinerà con sé. Amore, non lo sai, vedrai una via di uscita. A adesso il successo si misura non solo in termini di copie vendute. Allora, avevi venduto un milione di dischi, l'album La Forza della Vita 500.000 copie, adesso invece ci sono i like, i follow, quello è cambiato molto. Sì, che rapporto hai tu con tutto questo? Beh, un rapporto, sai, di una cosa che sarebbe come dire quando è stata, insomma, inventata la televisione, cioè di, che rapporto hai? È una cosa che c'è, per cui ne fai i conti. È chiaro che non può avere lo stesso valore un like di un disco o un album che ti appartiene, perché insomma si corre il rischio a volte di inseguire veramente i mi piace e i like per un gusto numerico, l'ascolto di un album che magari contiene diverse tracce e quindi magari ti vai a innamorare della traccia numero 7 o della 8. Cosa io che... di solito mi innamoro della 8, anch'io, a prescindere, guarda, la 8 è la mia preferita di solito. Guarda, in questo album lo sarebbe, credo, perché è una delle, forse la canzone che preferisco. Quando compravi un album di un artista, poi andavo a cercare le cose un pochino più intime, quelle magari un po' più sconosciute, e ti affezionavi veramente a un artista. Credo che questo i social abbiano un po' tolto, c'è la possibilità di ascoltare molta più musica ma molto meno in profondità, quindi però è un dato di fatto e va bene così. Cioè, la scaletta di questo album Filo Senza Fine è concepita proprio che chi arriva alla traccia 8 è perché ci vuole arrivare. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Paolo Vallesi. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.